Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore, di Alessio Maurizi. See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. You see the go-getter, she's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold type. I got faith in your baby, I got faith. Eccoci qua, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno e buon sabato da Carlo Gabardini. Sono le 7:34 minuti. Ben ritrovati con il buongiorno del weekend di Radio 24. Carlo, Milano Monterosa, com'è oggi? Milano Monterosa, oggi sono arrivato alle 6:10, quindi devo guardare fuori. Direi che potrebbe essere anche una buona giornata, insomma. Una discreta giornata. 800 24 00 24, cari ascoltatori, stiamo insieme fino alle 9. Vi aspettiamo per i vostri interventi. La nottata dei ricercatori ce l'abbiamo alle spalle, chissà come l'hanno vissuta i 120.000 ricercatori che stanno in Italia. E i 50.000 che invece sono dovuti andare all'estero. E quelli noi ci interessa anche come stanno, giusto? Sì, ci interessa perché queste sono le cifre, lo sappiamo. L'Italia al momento non è un paese per ricercatori, non è proprio un paese adattissimo ai ricercatori, anche se noi siamo Si può fare, quindi non vogliamo calcare la mano. Però queste sono le cifre. Noi perché soprattutto gli italiani invece sono perfetti per fare i ricercatori, perché sembra che siano dei ricercatori straordinari. Sono ricercati. Quasi sì. Esatto, sono bravissimo. Ricercatori ricercati. Allora, però noi ascoltatori vi vogliamo per questo, perché se l'Italia non è un paese per ricercatori, bensì, che paese è? Un paese adatto a far cosa? Cari amici che siete all'ascolto, amici stranieri soprattutto, che siete venuti a vivere nel nostro paese, che lo avete scelto, qual è il motivo che vi ha attirato? Abbiamo bisogno che ce lo diciate per tirarci tipo, sul morale. Cioè, la speranza è che chiami Sting, che ci spieghi perché si è comprato in Umbria o dov'è. No, a parte andrebbe le stupidate, bene. Certo, infatti Sting lo aspettiamo. A parte le stupidate, oltre agli stranieri, ovviamente anche gli italiani che conoscono storie di stranieri, che sanno le motivazioni per cui hanno scelto di rimanere qui o hanno preferito il nostro paese piuttosto che a loro. Dateci una buona ragione per stare in Italia, per venire in Italia. Il racconto che ci piacerà di più, che ci convincerà di più, come sempre, vince i biglietti per la mostra di Klimt al splendido MUDEC di Milano. 800 24 00 24. Parleremo, per il numero verde lo dico subito, anche di parcheggiatori abusivi, perché un fenomeno tollerato in passato, tutti ci ricordiamo del Totò che gridava parcheggiatori abusivi, ribelliamoci eccetera, adesso però sta diventando sempre di più un fenomeno quasi estorsivo, che ti distruggono la macchina, ti fanno pagare addirittura se sei in un parcheggio a pagamento, ti fanno pagare pure il parcheggiatore abusivo. E allora c'è una proposta che viene da Napoli, ne parleremo dopo. Più avanti. 800 24 00 24, però cari ascoltatori potete farci da controllori dei fatti, quindi se ci volete raccontare l'ultima volta che vi siete imbattuti in un parcheggiatore abusivo, come è andata a finire, noi siamo qua per raccogliere i vostri interventi. Adesso però andiamo sui giornali, andiamo alla nostra rassegna stampa. Al volo, allora, titoli principali direi che sono quasi tutti sulla Spagna. Il Corriere, la Catalogna. Catalogna fermerò il voto. Repubblica dice Catalogna i trattori a difesa dei seggi. E c'è la foto dei trattori con la bandiera catalana. Chi è che fermerà il voto? Il prefetto di Barcellona, che ha detto che vuole impedire il voto, insomma. E la novità è che anche la polizia catalana sta blindando i seggi, però la stampa scrive la sfida della Catalogna, seggi occupati da quelli che vogliono in realtà votare, e mentre la polizia, come dicevi tu, il prefetto Millo, il prefetto di Barcellona, ha detto la polizia ha ordini precisi, questo referendum non si fa. Poi c'è diciamo, il parallel... un manzoniano, non sa da fare. Parallelismo, la verità, scrive, dalla Catalogna a Lombardia e Veneto, rivolta contro le capitali succhia soldi. Questo potrebbe essere un super titolo, succhia soldi. Sì, succhia soldi. Non è bellissimo dal punto di vista, diciamo, stilistico, ma rende bene l'idea. Guarda, anche Libero è in odore di super titolo. Più che il titolone grosso che dice i partiti in bolletta si daranno al furto, che comunque mi fa abbastanza ridere, ma mi sembra quasi più divertente come titolo: i giovani italiani odiano i vecchi, vogliono i loro soldi. Quindi diciamo di immaginarsi questo paese in guerra fra giovani contro vecchi che cercano di rubargli il portafoglio o la pensione, è l'Italia, diciamo, che ci restituisce il Libero, che infatti non parla d'altro, sembra un po' un altro mondo, non parla di Catalogna, non parla di web tax, non parla di quello che succede nel mondo, di allora, Theresa May in ultima fila come un'intrusa al vertice, che invece è il Corriere della Sera che pubblica questa grossa foto del vertice del G28. No, non è il G28, no, chiedo scusa. Poi Tallinn. Esatto, è non facciamo di confusioni no, con no, i G, no. Con i G. Allora, G, Raggi, Torino. La Repubblica, altra grana, bocciato il bilancio, non è veritiero. Succede che l'organo di controllo parla di conti confusi, però il Movimento 5 Stelle ha replicato dicendo che si tratta di un attacco politico di questo organismo di revisione economico e finanziario, addirittura invitando gli esponenti che ne fanno parte a dimettersi. Questa così Repubblica, ma la notizia ce l'hanno tutti, la Stampa, Roma bilancio bocciato, l'ira del Movimento 5 Stelle, chi anche altri? Anche perché questo bilancio sembrava l'unico loro vanto, direi, no? In questo anno dicono, ma come siamo riusciti ad approvare il bilancio dentro i tempi? Quindi effettivamente, se questo bilancio non fosse veritiero, come dicono i revisori, sarebbe una bella grana per Virginia Raggi. Conti di Roma, l'allarme del tesoro, scrive il Messaggero. Andiamo però su con Giorgio Stamatopoulos, questa volta a Roma, a cercare di capire che cosa vogliono i lettori dai giornali, che cosa si aspettano di trovare i lettori, in questo caso romani, sui giornali di oggi. Ciao Alessio, ciao Carlo, siamo qui in strada a chiedere ai romani cosa vorrebbero leggere domani sui giornali. Vorrei un giornale che tratti attualità, dovrebbe trattare di quello che succede ogni giorno, quindi è impossibile, quindi no, cioè attualità, quello che c'è si legge, però basta che sia vero. Mi piace molto il Fatto Quotidiano perché è quello un po' più coraggioso e meno, diciamo, incline ad accontentare il potente di turno, ecco. Libertà, insomma, nella stampa è tutto. Ma io un giornale che non parli male del Movimento 5 Stelle. L'Avvenire, a chiesa, è domenica, la domenica c'è l'Avvenire. Un giornale che va a fondo sulle cose, che va a vedere lo schifo che fanno i politici e fa nomi e cognomi e quello che si rubano uno per uno, questo vorrei vedere. Mi interessano cronache, queste cose qua. Storie di sangue, cose. Sì, storie cruente. Pur essendo figlio edicolante non li leggo i giornali, perché comunque le notizie del giornale già hanno notizie vecchie, vengono stampate a mezzanotte. E se non leggi i giornali come ti informi? Tramite internet. Leggo, diciamo, solamente la versione online, poi non gradisco molto quello che leggo perché ovviamente il sistema online, il sistema web, internet sfrutta un altro sistema per monetizzare e quindi, diciamo, non è proprio un'informazione così precisa. Chi è il più informato a casa tua? Beh, papà sicuramente, beh, lui ha molto tempo libero. Beh, informato sono informato dai pronipoti, sono bisnonno. Eccolo qua, allora, beh, insomma... c'è quello che vuole sapere, che gli piace il Fatto Quotidiano e quello che gli interessa Avvenire, no? Dice il Fatto Quotidiano perché è l'unico giornale che non la manda a dire ai politici, a tutti quanti, allora, e non spara a zero su 5 Stelle forse. Allora abbiamo: torna la legge salva abusi edilizi. Purtroppo c'è questa notizia che in effetti io me l'ero segnata, perché ha ragione l'ascoltatore, qua c'è il DDL Falanga allo studio della Camera, perché potrebbe entrare lunedì all'esame del Parlamento. È già stato approvato in uno dei due rami una serie di norme che mirano, si è detto brutalmente, scrive il Fatto Quotidiano, a condonare gli abusi edilizi in essere, finendo per incentivare anche quelli a venire. È la famosa norma del DDL Falanga, quello che prevede l'abusivismo di necessità, cioè una legge che prevede uno stanziamento per i fondi per fare le demolizioni delle costruzioni abusive, ma nelle priorità delle costruzioni da abbattere, delle case da abbattere, inserisce all'ultimo posto i cosiddetti abusi di necessità, cioè rischiando in qualche modo di far sì che non si abbatta praticamente più niente, perché sono quasi tutti giustificati, spesso e volentieri, come abusi, molti di necessità, anche se poi vai a scavare, spesso tutta questa necessità di costruirsi la casa in riva al mare non c'era. Invece Avvenire, visto che chiedevano anche di Avvenire, parla molto di famiglia. Come sappiamo, il 28 e il 29 c'era questo appuntamento nazionale sulla famiglia, giusto, della quale ci sono state anche polemiche, perché le associazioni LGBT, a parte Arcigay e Agedo, non sono neanche state invitate. Agedo è stata invitata però senza diritto di parola, ma al di là, diciamo, delle polemiche del mondo LGBT, Avvenire titola: famiglia, Padoan spegne la conferenza, critico il forum, aiuti solo a chi è in emergenza. Si chiude fra la delusione delle associazioni, quindi evidentemente sia quelle LGBT che sono rimaste fuori, sia quelle che invece sono entrate, delle associazioni, l'appuntamento nazionale, tutti d'accordo sull'urgenza di sostenerla, ma niente fondi. Allora, c'era anche una lettrice che voleva notizie di cronaca nella nostra rassegna stampa on the road fatta a Roma. Tra poco l'accontentiamo. Ci sono anche notizie di cronaca sul giornale di oggi. Ci fermiamo per il traffico. Vi ricordo il numero verde 800 24 00 24. Una buona ragione per stare o venire a vivere in Italia. Scegliere l'Italia. Allora, la cronaca c'è all'interno del Corriere con una notizia incredibile che è accaduta due giorni fa a Milano. Il molestatore, il violentatore degli ascensori, così era conosciuto a Genova perché aveva compiuto oltre 20 stupri, è stato, dopo aver fatto 8 anni di carcere, è stato liberato ed è tornato in azione. Purtroppo a Milano ha abusato di una ragazzina ed è stato arrestato di nuovo. Ha detto: adesso curatemi la confessione del violentatore, adesso curatemi l'aggressione alla ragazzina dopo i 20 abusi a Genova, incendiata la porta del suo appartamento proprio a Genova. Questa è la storia incredibile di una persona che ha scontato sì degli anni di carcere, ma aveva una condanna molto più grande. E 8 poi, su 14 ne, esatto, ha scontati. È uscito, però due anni ha molestato molte di queste bambine non violentate. E adesso è tornato ad agire. Chiede di essere curato. Bisogna fare qualcosa per evitare che queste persone poi tornino ad agire in maniera violenta. Lo scrive Ferrarella sul Corriere: terapie in carcere, i controlli medici dopo la scarcerazione. Ecco come impedire che colpiscano ancora. Poi, allora, c'è sempre sul Corriere, a proposito della questione della revisione dei conti, di cui hai letto prima tu, Carlo, sì, a Roma, c'è l'intervista all'assessore al bilancio Lemmetti, quello che è venuto da Livorno apposta, certo, per risolvere la questione dell'ATAC, che dice così: l'OREF approfitta del suo ruolo tecnico per fare politica, ma non ci fermeranno. La bocciatura non conta nulla? Domanda il giornalista. Quella dei revisori è una relazione che non ha valore vincolante. Poi si difende: non è vero che abbiamo sbagliato, come dice l'OREF, sono previsti tutti i crediti in contenzioso, qua si entra sul tecnico, ma insomma tutte le partite non riconciliate, eccetera eccetera, abbiamo verificato, dice Lemmetti, fattura per fattura senza omettere nulla. Ma c'è anche la questione che riguarda la presidente dell'organismo di revisione conti, Federica Tiezzi, accusata dai 5 Stelle di essere lei stessa indagata per bancarotta fraudolenta, oltre a essere la moglie di un ex esponente dell'UDC, motivo per cui farebbe in realtà politica. Lei dice: io non sono indagata, non c'è un procedimento a mio carico, mio marito sì era un neo dell'UDC, ma adesso non fa più politica, fa l'architetto. Sì, e soprattutto, diciamo, che squalificare un'altra persona dicendo però sei anche tu indagata è un po' una roba che ci ha stufato. Cito il Fatto Quotidiano, visto che prima ci avevano chiesto del Fatto Quotidiano, una bella vignetta di Vauro dove ci sono due persone che si prendono a male parole dicendo: e allora il PD, e allora i 5 Stelle, e allora Renzi, e allora Di Maio, e allora Sala, e allora la Raggi. E il sottotitolo è Italia 100 allora, nel senso che a forza di dirsi allora, allora tu, allora qui, allora qua, in realtà non si risolve niente. Se ognuno accusa l'altro senza stare a ascoltare l'accusa che ha fatto, forse non andiamo da nessuna parte. Allora, fra poco qualche buona notizia, sì, però un altro titolone grosso è quello del Giornale, I grillini vogliono uccidere Berlusconi. Caccia al cavaliere. Movimento 5 Stelle, legge per impedire all'ex premier di guidare Forza Italia. Uccidere metaforicamente. Naturalmente succede che c'è un emendamento presentato al Rosatellum da parte dei 5 Stelle che prevede, virgolettato, a pena di inammissibilità della lista non può essere indicato quale capo della forza politica ai fini della presenta dichiarazione chi in base alla legge vigente al momento della non possa essere candidato e non possa comunque ricoprire la carica di deputato. Lo sappiamo, Berlusconi non può essere candidato, quindi secondo questo emendamento non potrebbe nemmeno essere capo della forza politica. Ed è interessante perché evidentemente 5 Stelle temono Berlusconi più di Salvini. Questo è, però bisogna anche dire che questa norma avrebbe una ratio: se non può essere candidato, come fai a fare il capo di una forza politica? Ma qui si apre una questione che è lunga 20 anni, che abbiamo alle spalle, quella di Berlusconi. Lasciamo perdere, passiamo a una buona notizia. Prima parlavo della foto in prima pagina del Corriere della Sera, dove c'è Theresa May in ultima fila come un'intrusa al vertice, così recita la didascalia. In realtà questa non è una buona notizia, anche se qualcuno si divertirà nel vedere Theresa May spostata in seconda fila, visto che se ne vogliono andare. Ma in realtà la buona notizia riguarda il vertice, perché questo vertice si sta occupando della famosa web tax, di cui noi parliamo molto spesso. Europa in 19 per la web tax. Gentiloni dice: possiamo procedere. Francia, Italia, Germania e Spagna fanno avanzare al massimo livello decisionale dell'Unione Europea la proposta di una tassa sul fatturato dei giganti USA del digitale. Speriamo. In realtà, come ben sappiamo, ci sono paesi che non sono d'accordo, e soprattutto sono proprio quei paesi che hanno un regime da paradiso fiscale, quindi Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Malta e Cipro. Allora, codice antimafia approvato, deve ancora essere approvato al Senato, è una buona notizia, però ci sono dei però. Per esempio Valerio Nida, costituzionalista: le scorciatoie inaccettabili sulla corruzione. Non ho tempo di leggervi il commento, però sostanzialmente l'equiparazione tra corruzione e mafia negli strumenti di prevenzione, di limitazione della libertà personale, viene criticato. Poi c'è anche un allarme di Confindustria sulle imprese a rischio fallimento, le imprese sequestrate e non confiscate. Abbiamo il comune di Belle oggi, sì, andiamo a sentire la rivolta delle belle idee nei comuni italiani con Marco Boschini. Ciao Alessio, oggi il comune ribelle della settimana è San Salvatore Monferrato, in provincia di Alessandria, dove l'amministrazione comunale, per sconfiggere il problema della crisi delle risorse, ha coinvolto la scuola in un progetto che si chiama Amici della Scuola, e praticamente, mettendo d'accordo tutti i commercianti del paese, ha fatto sì che ogni volta che un cittadino va a fare la spesa riceve in cambio un punto che viene convertito in risorse economiche che poi il comune reinveste nel piano dell'offerta formativa della scuola. Un progetto che tiene insieme tutto e che porta risorse laddove non ci sono più, avendo a cuore il futuro della comunità, cioè i giovani delle scuole. E allora, questa era l'iniziativa La Scuola Punti, Scuola Punto, San Salvatore Monferrato, e sono le belle idee dei comuni virtuosi. Allora, a proposito di belle idee, La Stampa dedica una pagina intera alla bella idea di Milano di riaprire i Navigli. Noi che siamo milanesi siamo un po' affezionati a questa idea, un referendum per riaprire i Navigli. Noi che siamo milanesi, tu sei pisano. Vabbè, d'adozione, dai, me la dai questa, me la dai. Sala, pronti per una città slow, la notizia è che lunedì arriva in consiglio comunale la proposta di referendum per riaprire Navigli e fare Milano come Amsterdam. Sempre su Milano, bella notizia di Sala che dice: devono tornare i mecenati. Però invece su Repubblica un reportage che dice: nell'Irpinia profonda l'arrivo dei migranti in attesa di un permesso umanitario fa riaprire le scuole e ripartire l'economia. E ora gli italiani restano nei comuni che volevano lasciare, la carica dei profughi bambini che riporta in vita i piccoli borghi. Questa è una buona notizia su Repubblica. Proviamo a sentire una ascoltatore, anzi un'ascoltatrice, Elsa da Bolzano. Benvenuta Elsa, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, su cosa volevi intervenire? Allora, io volevo intervenire per accoglienza che noi abbiamo avuto in Italia. Quindi una buona ragione per venire e stare in Italia. Una buona accoglienza, quindi. Una buona accoglienza. Io sono albanese, sono qua dagli anni 2000. Sì. Appena siamo venuti, per noi era molto difficile perché non potevamo fare il permesso un giorno subito, perché allora le leggi erano molto limitate, non è come oggi che vengono tutti, che fanno quelli adesso che fanno per 6 mesi e così subito. Ti sei trovata bene, un paese accogliente, scusa Elsa, ma la, qual è la virtù dell'Italia? Un paese molto accogliente, abbiamo trovato... Però devi essere accogliente anche tu allora, perché dici, è molto accogliente, non come adesso che invece arrivano tutti, siamo accoglienti sì, sempre. Subito. No, io sono accogliente, però per noi era più sofferto quella cosa per fare il permesso soggiorno. Certo. Dovevo trovare subito lavoro, se no non si faceva il permesso soggiorno. Va bene, grazie. Dobbiamo chiudere perché abbiamo pochi secondi, c'è il giornale radio. Allora, cari ascoltatori, vi aspettiamo dopo il GR all'800 24 00 24. Dateci una buona ragione per venire, stare in Italia, all'Italia. Non è un paese per ricercatori, almeno quello che dicono le cifre, i numeri. In questo momento ci sono 50.000 ricercatori italiani che sono all'estero. Ma allora l'Italia è un paese buono per cosa? Abbiamo bisogno che ce lo ricordiate, dovete tirarci sul morale, abbiamo bisogno di questo. È vero, è vero, chiamateci perché abbiamo bisogno di sapere perché rimanere o perché dire a qualcun altro di venire. 800 24 0024, GR, a tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ciao chef, come stai? Ciao Pier, bene, bene, grazie. Senti, cosa mi prepari? Io pensavo nuvole di granchio, una sensazione di finferno, magari con un'assenza di rododendro al gratin. No, no, no, sei troppo futurista, dobbiamo essere più pop. E parla come mangi. Ma no, mangia come parli. Mangia come parli, di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Il sabato alle 9, su Radio 24. Però pure la nuvola di granchio. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, eccoci qua, 8 e 19 minuti, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Cari ascoltatori, 800 24 00 24, cominciate a digitare il numero verde per intervenire in diretta. Questa mattina vi vogliamo motivatori, anche oggi, una buona ragione per venire a vivere in Italia, visto che il nostro non è un paese per ricercatori, per amanti della scienza. Abbiamo la notte dei ricercatori alle spalle e sappiamo dai numeri che è così, ci sono tanti ricercatori in Italia, ma non solo ricercatori, ma tantissimi che decidono di andare via anche per altri motivi. Qualcuno, diciamo, cattivamente potrebbe dire non è un paese per italiani, perché mi sembra che lo apprezzino di più gli stranieri. E però noi, stranieri o no, vi vogliamo stamattina a raccontarci qual è il motivo che vi ha spinto, che vi ha attirato a venire a vivere in Italia o a rimanere a vivere in Italia, perché insomma, l'Italia può essere un paese per tante cose, che ne so, per chi ama la musica, per musicisti, certo, per esempio, può essere un paese per il cibo, per chi lavora o vive nel settore del cibo, per chi la cultura, la meccanica di precisione, l'industria meccanica, non so, il teatro, va bene tutto. 800 24 00 24, come sempre l'intervento che ci convince di più vince i biglietti della mostra di Klimt allo splendido Mudec di Milano all'800 24 00 24. Cosa si è mosso questa settimana? Abbiamo fatto un po' di rassegna stampa nella prima mezz'ora. Allora, una buona notizia che però va presa anche in questo caso sulla fiducia, quella dell'Arabia Saudita, ne hanno parlato tutti, storico decreto del re, le donne potranno guidare l'automobile. Un mio amico su Facebook ha scritto: esultano i carrozzieri. E vabbè, questa la dovevo dire per forza. No. I carrozzieri arabi. Allora, qua bisogna anche specificare un po', perché io ho letto qualche parere informato. Insomma, l'Arabia Saudita è un paese nel quale le donne sostanzialmente non possono quasi uscire di casa da sole, non possono fare quasi niente da sole, hanno bisogno della guida di un uomo. È una cosa che va rimossa assolutamente. Adesso arriva questo decreto del re che dice possono guidare l'automobile, un passo in avanti, ben venga. Però qualcuno faceva giustamente notare, per andarsela a comprare imparare l'automobile, per esempio, ci vuole un conto in banca e le donne non possono avere il conto in banca se non con un uomo in Arabia Saudita. Quindi insomma è un passo in avanti, però amici dell'Arabia Saudita, facciamo un po', si può fare meglio, ecco, mettiamola così. Giusto, giusto. Invece un'altra buona notizia: Genova Book Crossing, lo trovi su una panchina sfogliato dal vento oppure su un seggiolino di un bus o di un treno, passa di mano in mano e di casa in casa, non ha padrone, non ha luogo, è un libro liberato, un libro che aspetta un nuovo lettore. Questa è la filosofia del Book Crossing, o giralibro per la gioia di Alessio, in che italiano. Non ama le parole, dillo in italiano, inglesi giustamente o anglofoni o comunque straniere italianizzate. Pratica, questo è il Book Crossing della libera distribuzione di libri arrivata a Genova già da qualche anno e che ultimamente sta avendo buon successo. La notizia in realtà è bello anche perché a Genova si è iniziato con il Book Crossing per ovviare alla mancanza della biblioteca civica che era in ristrutturazione. Ovviamente non è che ovvia proprio alle necessità e a ciò che assolve una biblioteca, però è un piccolo passo. Poi il successo è stato immediato e quindi hanno proseguito con questa pratica, addirittura arrivando a prendere delle cabine telefoniche dismesse, che tutti ci chiediamo che cosa si farà con le cabine telefoniche, Book e usandole. Giralibro. Esattamente, esattamente. Poi alcune sono state vandalizzate, però non è di questo che ci occupiamo, ma del fatto che il Book Crossing c'è, funziona, è vivo, c'è e vegeto. C'è stato anche a Milano, nella stazione, in alcune stazioni metropolitane, trovavi dei libri, li prendevi, poi la cosa bella è che puoi scriverci un commento, magari lo rimetti dove lo hai preso dopo averlo letto, qualcuno poi se lo va a riprendere potrebbe anche rispondere al tuo commento e romanticamente potrebbe anche tornarti in mano, esatto, lo stesso libro dopo qualche anno e creare una rete, creare, è quasi un social. È vero che è difficilissimo, è importante ricordare che se uno prende un libro, benissimo che lo prenda, benissimo che lo legga, va anche bene forse che se lo tenga se vuole tenerlo perché lo ha amato moltissimo, ma ne metta un altro in giro, ne metta un altro in circolo, di modo che il gioco continui e non si fermi. Certo, per quelli troppo affezionati all'igiene non è il massimo il giralibro, però ci passiamo. È vero, ma io ho sempre comprato i libri al libraccio, quindi ascoltatori, abbiamo Pier che chiama dalla provincia di Treviso. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Vai. Sì, io volevo solo dire che un motivo per cui è stata restituita la voglia, insomma, anche l'orgoglio degli italiani, è stata l'azione dell'ultimo governo, diciamo, chiamiamolo così, Renzi Gentiloni, ma parlerei soprattutto dell'esperienza di Renzi dei mille giorni, perché sono state fatte riforme che aspettavamo da più di 30 anni e i risultati non si sono visti subito, perché quando uno lavora bene i risultati non possono essere pigliati, le bacchette magiche non esistono. Ma lei, però, ma lei è il padre di Renzi? Il fratello? Come? È il padre di Renzi lei? Cognato, insomma, cugino? Diciamo, io ho una voce magari non proprio da 60enne, ecco. Cioè io dico agli ascoltatori, giuro che questo ascoltatore ha chiamato lui. Ha dato qualche anno di troppo, attenzione. Le chiedo scusa. Pier, di la verità, non ti abbiamo chiamato noi, sei tu che hai chiamato, vero? Voi avete fatto un sondaggio, diteci i motivi per cui... No, perché è un po' strano che noi siamo felicissimi che lei abbia chiamato. È un po' strano che uno chiami per lodare il governo, questo semplicemente. Vai, Pier. È un po' strano che non chiamo? Che uno chiami per lodare il governo, infatti, in genere tutti si lamentano. Ma io infatti ho chiamato apposta, perché bravo, in Italia lo sport più comune è quello di attaccare l'allenatore della nazionale, infatti, il presidente del consiglio. Sono proprio degli sport assolutamente, diciamo, diffusi nella popolazione. Sei nel programma giusto, quindi concludi? Sì, e poi concludo anche, visto che è una radio economica, concludo sul piano economico. Insomma, mi sembra che i conti sulla produzione industriale stiano andando veramente molto bene, anche rispetto agli altri paesi europei. Mi sembra che adesso, di lavoro e disoccupazione, però chiedo scusa, che i nostri conti stiano andando molto meglio di tutti gli altri paesi europei, non so, sono detto molto meglio. Stiamo andando sempre peggio, ricordiamoci ecco. Che partivamo da fanalino di coda. Da fanalino di coda sulla produzione industriale negli mesi, invece siamo arrivati, sì, mi sembra, ieri, vero, vero. Posto. Cioè, ieri, è vero. Come dire che il Catanzaro, ultimo in classifica in Serie A, magari si trova a metà classifica su alcune cose. È tutto giusto, sono obbligato a fare un po' l'avvocato del diavolo, perché sicuramente parte dei nostri ascoltatori si staranno chiedendo che tipo di giornali legge lei, e noi invece le vorremmo chiedere di mandarceli anche a noi. Io io leggo l'ANSA.it proprio perché non mi fido di nessuno e voglio vedere un'informazione neutra. L'informazione neutra. Cos'è che legge che non ho sentito? L'ANSA.it. Ho capito l'ANDA.it. Bisogna dire, ha ragione Pierre, c'è ieri la notizia che la produzione industriale italiana, la stima di Confindustria, è in rialzo. Quindi ci sono questi dati. E Pierre, la sua motivazione è molto semplice. Cioè, in Italia si sta muovendo qualcosa, la politica e l'economia. Questo è il suo punto di vista, questo è il motivo per il quale Pierre ci dà la ragione per vivere in Italia, per rimanere in Italia, perché si sta rimettendo in moto qualcosa. Questo è il suo punto di vista. Ascoltatori, lo so che in molti la pensate all'opposto, ma bisogna rispettare l'opinione di tutti. 800 24 00 24. Noi aspettiamo tra poco, dopo la pausa, altre telefonate, altri motivi per cui vale la pena vivere in Italia, venire a vivere qua, visto che l'Italia non è un paese per ricercatori, sarà ben un paese adatto a fare altro, e allora noi vogliamo che ci tiriate sul morale, aiutateci a trovare una buona ragione. Poi dovremmo parlare anche di parcheggi abusivi, ma stiamo rintracciando l'assessore di Napoli, l'assessore alle politiche giovanili Clemente, che ha una proposta sul parcheggi abusivi a Napoli, non solo, farli ritornare un reato penale. È questa la proposta, dopo che è successo a Napoli che l'auto di 4 turisti americani è stata danneggiata dai parcheggiatori abusivi perché loro non avevano pagato. Forse l'assessore sta cercando parcheggio, giustamente, quindi non ci risponde al telefono. Sta cercando un carrozziere per aggiustare l'auto. Non lo so, fatto sta che non ci risponde. 800 24 00 24, però vi chiediamo, l'ultima volta che vi siete imbattuti, soprattutto nel sud Italia, perché sono quelle le regioni dove stanno i parcheggiatori abusivi, in uno di loro, come è andata a finire? Siamo qua, tra poco. Si può fare. Quella che è appena trascorsa è stata la notte dei ricercatori, con eventi in tante città italiane per ricordarci di questo lato chiaroscuro, perché sono delle persone che hanno grandi capacità, sono il vanto dell'Italia spesso, però sono costrette ad espatriare per poter portare avanti la loro ricerca, perché le ultime cifre dicono che ci sono 120.000 ricercatori in Italia, ma 50.000 che abbiamo perso, che sono andati all'estero, quindi il 33% qua. Diciamo, una circolazione di cervelli nel mondo potrebbe anche essere normale, sempre che noi fossimo in grado di attirare altri 50.000, tu dici, o anche più di 50.000. ma non è così, perché non si investe abbastanza, pubblico e privato, ahimè. Pubblico e privato non investono abbastanza nella ricerca. Allora, su quanto sia difficile ma anche esaltante la vita dei ricercatori, abbiamo questa mattina con noi Paola Grenni. Buongiorno, benvenuta. Salve, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi. Lei è una delle tre ricercatrici dell'IRSA, l'Istituto per la Ricerca sull'Acqua del CNR di Monterotondo, in provincia di Roma, in Italia, ad avere vinto recentemente un premio, il premio, vediamo se lo pronuncio bene, Elsevier Atlas. Atlas Award, yes. Okay. Yes. Oh, yeah. Atlas Award. Si tratta di un premio dato da un editore olandese importante che da tempo premia la ricerca scientifica che ha un impatto, anche poi cerca di avere immediatamente un impatto sulla nostra, sulle persone comuni e non solo sulla comunità scientifica. Non sarà il Nobel che arriva, no, in settimana, però è un riconoscimento internazionale molto importante. Soprattutto pensate che diciamo, non è che si partecipa a questo premio, ma proprio è l'Atlas che è la, è l'Elsevier che proprio che vi viene a cercare, che si legge, esatto, tutti gli articoli scientifici, giusto? Esatto, che sono più di 2500 ogni mese, quindi considerate studiano la mole, studiano tantissimo. E hanno scelto voi, per cosa? Per quale ricerca, Paola? Allora, perché noi abbiamo scritto una pubblicazione, una review sugli effetti degli antibiotici sugli ecosistemi, quindi che effetto possono avere gli antibiotici una volta che tu li hai diciamo assunti, e poi diciamo possono raggiungere anche purtroppo anche le acque superficiali a valle. Ecco, sono le 8 certo. e 36 minuti, molti staranno forse facendo colazione, è un momento un po' particolare, delicato della giornata per parlare di questo ciclo, diciamo, degli antibiotici che stai cercando di dire e non dire che nel momento che uno prende un antibiotico, come giustamente ci sta dicendo la ricercatrice, lo assume, poi lo deve anche espellere. Giusto? Giustamente, quindi parte di questi antibiotici va a finire che vanno nelle fogne, dopodiché appunto entrano nell'ecosistema. Ho detto bene? Sì, diciamo, ovviamente le acque reflue passano attraverso, no, gli impianti di trattamento normali delle città. Però gli impianti di trattamento purtroppo non sono in grado di abbattere queste molecole, perché un po' sono comunque a basse concentrazioni e poi non sono disegnati proprio per abbattere questo tipo di molecole. Perché tutte queste acque reflue vengono comunque filtrate, rimesse in circolo come acque comunque adatte a rientrare nell'ambiente, tolti tutti gli scarti, ma la molecola dell'antibiotico transita, come dire, indisturbata, no? E questo è il problema da cui siete partite. Che cosa, diciamo, avete scoperto, Paola, poi di questa molecola che potrebbe ritornare in circolo? Diciamo, queste molecole, anche se in realtà ovviamente sono in bassissime concentrazioni, perché parliamo proprio di nanogrammi, veramente concentrazioni molto basse, però questo tipo di molecole sono molto attive, perché sappiamo bene gli antibiotici, come tutti i farmaci, sono molecole molto attive, giustamente, perché devono espletare la loro funzione, però possono essere anche attive appunto anche sulle comunità microbiche e comunque sugli ecosistemi naturali. Ecco, però il problema, che se ho capito bene, è che questa concentrazione, per quanto bassa, di molecole che resta in circolo, poi potrebbe in qualche modo portare a rendere inutile poi l'utilizzo alla lunga dell'antibiotico negli esseri umani, perché proprio perché c'è questa persistenza. Diventiamo più resistenti. Esatto, diciamo, queste concentrazioni, diciamo, possono far sviluppare nei batteri una resistenza, che vuol dire che che i batteri poi non vengono più eliminati dagli antibiotici, quindi. E questo sarebbe un bel problema, no? Quei cosiddetti, che non so se li conoscete, sono anche chiamati superbatteri, no? Questi batteri che appunto, nonostante diciamo appunto esistono gli antibiotici, che si sono rafforzati, però, esatto, hanno sviluppato, diciamo, la capacità di resistere agli antibiotici. Certo. E quindi che cosa possiamo fare? Ecco, l'impatto della vostra scoperta, della vostra ricerca scientifica, Paola, ci porta a quale possibile soluzione per questo problema, che poi è il motivo per cui gli Atlas Award vi hanno selezionato fra tanti. Ecco, diciamo, bisogna, diciamo, intervenire sugli impianti di trattamento, quindi bisogna ovviamente investire con degli studi ad hoc proprio per diciamo, migliorare l'efficienza di questi impianti di trattamento, e questo, diciamo, è una cosa la più importante. La seconda ovviamente deve essere a valle, cioè non consumiamo gli antibiotici senza che il medico ce lo prescriva, o comunque utilizziamoli, diciamo, nelle giuste modalità anche, perché un uso sproporzionato e inutile, comunque dobbiamo pensare anche agli effetti anche ambientali che possono avere. Posso aggiungere una cosa, così mi dice se è giusta, e l'altra questione è di non buttare gli antibiotici che non usiamo, visto che hanno sempre delle confezioni con dentro un numero, per cui di solito te ne avanzano 11 quando hai finito di prenderli. Non buttiamoli nel gabinetto, ma mettiamoli dove si mettono le medicine da riciclare in farmacia, giusto? Assolutamente, assolutamente importantissimo che appunto ci sia questa coscienza di buttare gli antibiotici, come tutti i farmaci, certo, negli appositi contenitori delle farmacie, sì. Ecco, fin qua abbiamo parlato di questa scoperta per cui appunto avete vinto gli Atlas Award del 2017. Però voi questa ricerca la fate all'interno del CNR, però se ho capito bene Paola, non è che ci siano proprio dei fondi, una linea di fondi per portare avanti questa ricerca, ve li dovete un po' procurare andandole a cercare tra privati, fondazioni e così? Sì, diciamo noi facciamo diverse linee di ricerca e abbiamo anche diversi contratti anche magari con società private e grazie a questi fondi noi diciamo una parte di questi fondi li utilizziamo per fare questa ricerca di base. Come sappiamo bene la ricerca di base è fondamentale, no? Quindi noi facciamo come fosse un doppio lavoro, si può dire, cioè da una parte fate ricerca, per studiate contratti e poi diciamo una parte di questi fondi li utilizziamo per la ricerca, che comunque è la nostra passione. Ma ci sono anche case farmaceutiche che producono antibiotici che vi danno dei soldi? No, a quello è molto difficile. Anzi, non proprio diciamo, loro, sono non molto proprio. Ma forse è meglio, però, nel senso che nel momento che ci fossero, forse qualcuno potrebbe sospettare che la ricerca venga inficiata. Insomma, è la vecchia questione dei fondi, di come mai tutti dicono ci vogliono i fondi privati. A volte servono anche i fondi pubblici per garantire una certa imparzialità. Esatto. Esatto, sì. E infatti poi le case farmaceutiche ti guardano anche molto, no, guardinghe per vedere che tipo di studi, no, vengono fuori, quali sono i risultati, sono molto molto attenti, anche per esempio nei convegni internazionali dove noi spesso portiamo i nostri risultati, in alcuni convegni, che tra l'altro l'anno prossimo ci sarà uno a Roma molto importante della CETAC, alla Nuvola di Fuxas, e in questi convegni partecipano anche alcuni esponenti appunto delle case farmaceutiche proprio per vedere quali sono i risultati delle ricerche. Certo, in realtà come ci direbbe il nostro caro Ercolini, avere un rapporto con queste case farmaceutiche potrebbe anche essere una buona idea, perché magari li si riesce a convincere a produrre antibiotici che in qualche modo danneggino meno l'ecosistema. È ovvio che un po' è insito nell'antibiotico dover avere un effetto, però magari si possono studiare dei metodi per cui siano meno invasivi. Visto che poi loro di ricerca ne fanno tanta, voglio ricordare anche però, Paola, il nome delle tue colleghe, Anna Barra Caracciolo e Valeria Ancona. È giusto, sì, ricordarle. Sono due colleghe del mio stesso istituto. Esatto, perché avete lavorato insieme a questa ricerca. Avete mai pensato di andarvene dall'Italia come fanno molti vostri colleghi, magari all'inizio della carriera, per avere una prospettiva che in Italia non c'è? Voi una piccola prospettiva, o anche più grande, l'avete al CNR, però ti è mai passato per la testa di andartene? Diciamo, quando vedi i tuoi colleghi, diciamo, dell'estero che hanno altri stipendi rispetto ai tuoi, certo, diciamo, la tentazione è tanta. Cioè faresti la valigia subito in quel caso, appena senti le cifre. Però non lo so, noi italiani abbiamo anche un senso molto della famiglia. Io ho una famiglia qui a Roma e per me è una cosa importante, non lascerei l'Italia per la mia famiglia, quello no. E questi numeri importanti, no? quasi la metà forse dei ricercatori italiani che stanno all'estero, noi abbiamo detto forse una circolazione di cervelli potrebbe essere normale, ammesso che in Italia arrivassero altrettanti, si riuscisse ad attirare altrettanti cervelli dall'estero. Capita questo o capita troppo poco secondo te nel nostro paese? Capita poco, però io vedo che in realtà quando c'è una possibilità per gli italiani che sono stati per un periodo all'estero, per esempio per un dottorato, eccetera, vedo che loro hanno voglia di ritornare in Italia, la voglia c'è di ritornare, anche al limite adeguandosi a un altro genere di stipendio. Certo, le possibilità ma per lo stile, non sono tantissime. Ma il desiderio di ritornare è per lo stile di vita, per come si fa la ricerca? Sebbene poco finanziata. No, per la ricerca comunque, se uno ci si impegna, insomma, si riesce a fare. Certo, non magari con livelli, diciamo, all'estero per il tipo di fondi che ci sono, però se uno si impegna si riesce anche a fare. E uno, secondo me, cioè i ricercatori cercano di ritornare indietro perché comunque sentono le proprie radici italiane e hanno voglia di ritornare nel proprio stile italiano delle loro radici. Questo certo. Secondo me. Ebbene, grazie Paola Grenni, una delle 13 catechiste CNR di Monterotondo a Roma, vincitrice dell'Atlas Award 2017. Beh, sarebbe proprio stamattina fare bingo se ci chiamasse nell'ultimo scampolo di trasmissione qualche ricercatore che dall'estero è venuto a vivere in Italia e ci raccontasse la sua buona ragione per la quale è stato attirato, è venuto a vivere in questo paese che fatica ad attrarre, ma esporta molto, troppo, in termini di manodopera qualificata. 800 24 00 24, siamo ancora qua. Se voi stessi siete stranieri o avete degli amici stranieri, delle storie da raccontarci, sarebbe proprio bello questa mattina che ce le venisse a raccontare qua. Eccoci qua con Emilia che ci chiama da Milano. Emilia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Senta, a proposito della pena di vivere in Italia. Sì. Io sono stata in Cina 2 mesi, un mese a Wenzhou, un mese a Shanghai, e quando si accorgevano che ero italiana, perché io ho l'abitudine prima di usare una lingua straniera parlo sempre italiano, un giorno ero fuori da una scuola a vedere le mamme, che i nonni come qui che vanno a prendere i bambini, ho detto bello, con un mezzo che era lì, dei nonni con una macchinetta a 3 ruote, e allora una signora mi ha detto: è italiana? Sì. E mi ha detto: io sono stata a Sassari, bravi italiani, buoni italiani. Mi ha persino regalato una collana perché mi ha raccontato che è stata a Sassari. Poi quando ero in giro, ogni volta che capivano che ero italiana, perché circolavo con la Lonely Planet italiana e con Marco Polo, il libro di Marco Polo, Il Milione, insomma, io continuavo, tutti dicevano bella Italia, buoni italiani, e insomma, per me è stata, cioè noi dobbiamo contare sulla nostra bellezza. Abbiamo un'immagine che è sempre sorprendentemente migliore di quella che noi stessi pensiamo di noi avere. E diamo di noi ogni volta che andiamo all'estero. In effetti, ha ragione Emilia, ce ne dobbiamo rendere conto. Grazie Emilia, mettiamo anche la tua telefonata agli atti del gioco di oggi. 800 24 00 24, c'è ancora un po' di tempo per chiamarci e raccontarci un buon motivo per restare in Italia o tornare in Italia. Allora, come annunciato, adesso è il momento di parlare del fenomeno dei parcheggiatori abusivi, che sono essi stessi dei fenomeni, verrebbe da dire, perché insomma chiedere alle persone che parcheggiano soldi quando magari già hanno pagato il parcheggio normale, ma chiedere dei soldi in più, oppure fare come è successo a Napoli, che 4 studenti americani si sono ritrovati l'auto sfasciata perché non avevano perché si erano rifiutati pagato, di pagare, è proprio da fenomeni. È con noi l'assessore alle politiche giovanili di Napoli, Alessandra Clemente, benvenuta. Ciao, buongiorno. Buongiorno, ha trovato parcheggio? Me l'aspettavamo un po' di minuti fa, in realtà. Anche perché volevamo chiedere agli ascoltatori di raccontarci l'ultima volta che si sono imbattuti in un parcheggiatore abusivo, che cosa è successo, perché questo è un fenomeno che siamo abituati un po' a tollerare, no? Come una forma di richiesta di questo, a quasi una moneta per il parcheggio, ma non è più così. Partiamo da quello che è successo a Napoli recentemente. Accaduto che dei ragazzi sono stati avvicinati, loro non apparteneva assolutamente alla loro cultura ciò che era la richiesta da parte di questo avventore, si sono rifiutati, si sono resi conto che c'è stata una reazione quasi intimidatoria, l'hanno filmata, e quindi poi nel filmare questo gesto di danneggiare la fiancata della loro auto hanno prontamente chiamato le forze dell'ordine, e per danneggiamento quindi questa persona è stata trattenuta per 2 notti e poi nella giornata di lunedì mattina è stata rilasciata. Questa è stata per noi, io ricopro il ruolo di assessore del Comune di Napoli, un'occasione per rilanciare una richiesta importante che già la città di Napoli, in sede ANCI, attraverso il comandante delle polizie locali, abbiamo richiesto al legislatore. E cioè questa è la proposta, questa è la vostra proposta che arriva a questo punto, che è, assessore? Di modificare la normativa e di renderlo da illecito amministrativo a illecito penale. Perché ciò che veramente le persone non comprendono ed è inaccettabile è che questi soggetti sono noti, li conosciamo, sono sotto la luce del sole e sono sempre negli stessi posti. Com'è possibile quindi accettare tutto questo? Perché ricordiamo, facciamo un piccolo passo indietro, che questo era già un reato penale, poi nel 2003 è diventata sanzione amministrativa, sanzioni che spesso non vengono pagate e i parcheggiatori abusivi non solo ci sono ancora, ma forse addirittura sono aumentati. Di recente il ministro Minniti ha inserito previsioni tipo il DASPO per persone che fanno particolari reati, si sta usando anche per i parcheggiatori abusivi, per esempio, se non ho visto male, a Salerno, vicino a Salerno. Lei che ne pensa? Potrebbe essere questa anche una soluzione, il DASPO? Non è una soluzione questo provvedimento in primo luogo, perché per come è pensato è veramente un qualcosa di non condivisibile, ma soprattutto non possiamo immaginare che questa condotta possa essere così reiterata sotto la luce del sole e non intervenire in modo più decisivo. Pensi che noi abbiamo soltanto dal primo dell'anno, sì, del 2017, provveduto a multare 6.166 volte. In non due settimane sono 289 le persone che la Polizia Municipale identifica e il volume di affari è sostanzioso. Pensi che c'è dalla prassi della liberalità, e quindi magari 50 centesimi, un euro, a zone che invece sono vero e proprio ticket dai 3 ai 5 euro. Ma mi scusi, è la cosa che mi chiedo, ma chiedere dei soldi per minacciando se no di distruggerti la macchina, non è estorsione? Non è già un reato penale? La minaccia non si configura. Quando ci sono delle denunce, ne sono numerose e devo dire dal mio osservatorio sono centinaia le mail che riceviamo di persone che denunciano, anche quando si va davanti al magistrato spesso si procede con delle archiviazioni, perché la minaccia tante volte non si configura nella fattispecie tipica di una minaccia estorsiva quale quella di un'estorsione legata al fisco di un'attività criminale. Però in questo caso sì, nel momento in cui si avvicina chi riceve questo avvicinamento, anche perché ha un timore di ciò che può accadere, non soltanto perché non viene minacciato, non viene esplicitato, ha un timore di ciò che può accadere, allora preferisce, come dire, nel dubbio dare questa elargita. Ci sono anche persone che cercano questo. Dobbiamo chiudere, però, assessore Clemente, noi la ringraziamo per essere stata con noi. La proposta da Napoli è questa: reato penale, quello di parcheggiatore abusivo, è una proposta perché il fenomeno non solo non diminuisce ma aumenta e spesso è una vera e propria estorsione. Noi dobbiamo salutarci, diamo l'appuntamento a domani 10 sto stando i numeri, con Si può fare, un ringraziamento dalle 8 alle 10 ad Andrea Piana, Claudia Schiattone, Andrea Roccabella. Daremo domani il nome del premiato di oggi, lo diamo domani, eh? Ciao. Certo. A domani. Ciao da Carlo Gabardini e da Alessio Maurizio.